Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Più di 20 anni dopo gli avvenimenti narrati nei precedenti capitoli, mi trovavo a passeggiare con Lady Lyndon. Era il 1790, l'emigrazione della Francia era già iniziata. Vecchi conti e marchesi affollavano le nostre sponde, non affamati e cupi come li si vide pochi anni dopo, ma ancora senza segni di molestie e con qualche traccia del passato splendore nazionale. Passeggiavo con Lady Lyndon quando lei, proverbialmente gelosa e sempre pronta a infastidirmi, mise gli occhi su una signora straniera che indubbiamente mi stava osservando e subito chiese chi fosse quell'olandese grassa e orrenda che mi sbirciava in quel modo. Io non sapevo proprio chi potesse essere. Mi sembrava, sì, di aver già visto la faccia di quella signora da qualche parte. Ormai era spaventosamente ingrassata e gonfia, come diceva mia moglie, ma non riconobbi in colei che mi mostrava il viso una che ai suoi tempi era stata tra le più belle donne di Germania. Era niente meno che Madame de Lillingarten, l'amica, o come certi dicevano, la moglie morganatica del vecchio duca di Baviera, il padre del duca Victor. Aveva lasciato la Baviera pochi mesi dopo la dipartita del vecchio duca. Mi era giunta voce che fosse andata a Parigi, dove un avventuriero spregiudicato l'aveva sposata per il suo denaro. Ma lei aveva sempre mantenuto il suo titolo quasi regale ed esigeva, tra le grasse risate dei parigini che frequentavano casa sua, di essere fatta oggetto degli onori e cerimoniali dovuti alla vedova di un sovrano. Si era fatta costruire un trono nel salone di rappresentanza e i suoi domestici e i suoi corteggiatori, come pure chi voleva chiederle soldi in prestito, la chiamavano Altezza. Si diceva che bevesse piuttosto abbondantemente. La sua faccia mostrava certo tutti i segni di quel vizio, senza più la bellezza rosea, schietta e bonaria che aveva incantato il sovrano che l'aveva insignita del suo titolo. Nel mio circolo non mi rivolse la parola, ma a quell'epoca io ero noto quanto il principe di Galles e lei non ebbe difficoltà a trovare la mia casa di Berkeley Square, dove l'indomani mi venne consegnato un biglietto. «Una vecchia amica di Monsieur de Balibarry», diceva in pessimo francese, «è ansiosa di rivedere il cavaliere per parlare un po' dei bei vecchi tempi. Rosina de Lillingarten sarà a casa sua in Leicester Fields tutta la mattina, aspettando uno che non le sarebbe mai passato accanto senza salutarla 20 anni fa. Ed era proprio lei, Rosina di Lillingarten. Una rosina così fuori stagione non l'ho quasi mai vista. La trovai nel suo decoroso primo piano di Leicester Fields. Beveva del tè che stranamente aveva un fortissimo odore di brandy. Dopo i convenevoli, che sarebbero più noiosi a raccontarsi di quanto furono a compiersi, e dopo un po' di altra varia conversazione, mi fece in breve il seguente racconto dei fatti di Baviera. Potrei intitolarlo La tragedia della principessa. Certamente ricordate Monsieur de Gildern, il ministro di polizia. Era di origine olandese, per di più di una famiglia di ebrei olandesi. Benché tutti sapessero di questa macchia sul suo blasone, schiumava di rabbia se la sua origine veniva anche solo sospettata e, per riparare all'errore di suo padre, si dava a esorbitanti dimostrazioni di religiosità e alle più austere pratiche devozionali. Andava in chiesa tutte le mattine, si confessava una volta alla settimana, odiava ebrei e protestanti come un inquisitore. Odiava a morte la principessa. Sua Altezza, per uno dei suoi capricci, gli aveva rinfacciato la sua origine. A tavola aveva ordinato di togliergli la carne di maiale dal piatto, o un altro stupido insulto di questo genere, e aveva una violenta avversione anche per il vecchio barone de Magny, sia in quanto protestante, sia perché il barone, in un momento di alterigia, aveva pubblicamente preso le distanze da lui, chiamandolo profittatore e spia. C'erano continue liti tra di loro al consiglio ducale, dove soltanto la presenza dei suoi augusti signori tratteneva il barone dall'esprimere a più riprese e davanti a tutti il suo disprezzo per l'ufficiale di polizia. Dunque per Guilderme l'odio era una prima ragione per mandare in rovina la principessa, ma sono convinta che avesse anche un altro e più forte motivo: l'interesse. Ricordate chi sposò il duca Victor dopo la morte della sua prima moglie? Una principessa della casa di Fellò. Guilderme costruì il suo stupendo palazzo 2 anni dopo e sono certa che lo fece con il denaro che gli aveva dato la famiglia Fellò. Andare dal principe Victor e riferire a sua altezza un fatto noto a tutti non era assolutamente questo che Guilderme intendeva fare. Sapeva bene che il latore di informazioni così catastrofiche avrebbe perso per sempre la stima del principe, con conseguenze rovinose. Il suo obiettivo, perciò, era di lasciare che la faccenda si rivelasse da sé a sua altezza, e quando i tempi furono maturi, si mise in cerca di un mezzo per raggiungere il suo scopo. Aveva spie nelle case del vecchio Magny e di suo nipote, ma questo certamente lo sapevate, data la vostra esperienza delle consuetudini continentali. Avevamo tutti spie, l'uno in casa dell'altro. Il vostro negro, Zamor, se non sbaglio si chiamava così, veniva a farmi rapporto ogni mattina e io intrattenevo il buon vecchio duca dicendogli come di mattina voi e vostro zio vi esercitavate al picchetto e ai dadi o raccontando le vostre litigate e i vostri intrighi. E il valletto di Monsieur de Magny riferiva sia a me che a Monsieur de Guilderme. Io conoscevo quella storia dello smeraldo dato in pegno. Fu dal mio tesoro personale che la povera principessa trasse i fondi che furono spesi per quell'odioso ebreo Low e per il giovane cavaliere, che era ancora più spregevole. Come la principessa potesse continuare a fidarsi di lui sfugge alla mia comprensione, ma non c'è infatuazioni pari a quella di una donna innamorata. E se ci fate caso, caro Monsieur de Balibari, il nostro sesso in generale si impunta sugli uomini peggiori. Non sempre, signora, interruppi io. Il vostro umile servitore ha suscitato molte passioni come quella di cui parlate. Non mi pare che questo incrini la verità della mia affermazione, replicò la vecchia dama in tono asciutto, e poi riprese il suo racconto. L'ebreo Low, che aveva in pegno lo smeraldo, aveva avuto molti abboccamenti con la principessa e alla fine gli fu offerto un compenso talmente enorme che decise di restituire il gioiello. Commise l'inconcepibile imprudenza di portare lo smeraldo con sé al ducato e andò a far visita a Magny, che aveva ricevuto dalla principessa il denaro per riscattare il pegno ed era effettivamente pronto a pagarlo. Il loro incontro avvenne in casa di Magny, perciò il suo valletto ascoltò di nascosto l'intera conversazione. Il giovanotto, che era sempre trascuratissimo in fatto di denaro quando ne aveva, offrì la somma con tanta disinvoltura che l'ebreo Low alzò la sua richiesta ed ebbe l'impudenza di chiedere il doppio della cifra stipulata in precedenza. A questo punto il cavaliere perse del tutto la pazienza, si gettò sul disgraziato e voleva ammazzarlo, ma quel provvidenziale valletto entrò di corsa e lo salvò. Aveva sentito ogni parola del dialogo tra i due contendenti e l'ebreo volò terrorizzato a rifugiarsi nelle sue braccia. Magny, che era un uomo impulsivo e focoso, ma non un violento, disse al servo di accompagnare giù per le scale quella canaglia e non ci pensò più. Il servo condusse l'israelita tutto tremante fuori del palazzo e non appena l'ebbe visto sistemato in casa di uno della sua fede, a cui spesso chiedeva alloggio, se ne andò all'ufficio di Sua Eccellenza il ministro di polizia e gli narrò parola per parola la conversazione tra l'ebreo e il suo padrone. Kellnern espresse la più grande soddisfazione per la prudenza e la fedeltà della sua spia. Gli diede una borsa con 20 ducati e promise di ricompensarlo generosamente, come altri potenti a volte promettono di premiare coloro di cui si servono. Ma voi, Messie de Balibari, sapete bene quanto raramente queste promesse vengano mantenute. Adesso vai a scoprire, disse Messie de Kildern, quando è che l'israelita intende tornare a casa o se invece intende pentirsi e accettare il denaro. L'uomo andò a eseguire la commissione. Intanto Kildern, per andare sul sicuro, combinò una serata di gioco a casa mia, invitando voi a tenere il banco, come forse ricorderete, e allo stesso tempo trovò il modo di far sapere a Maxime de Magny che ci sarebbe stato un banco di faraone da Madame de Lillingarten. Era un invito che quel povero diavolo non ignorava mai. Io ricordavo bene i fatti e continuai ad ascoltare, stupefatto dall'ingegnosità dell'infernale ministro di polizia. La spia ritornò dalla sua missione presso l'ebreo Love e dichiarò di aver fatto indagini tra i domestici della casa dove alloggiava lo stesso ebreo di Heidelberg e che quest'ultimo intendeva lasciare il ducato quel pomeriggio. Viaggiava da solo su un vecchio cavallo vestito in maniera modestissima secondo le abitudini della sua gente. «Johann!» disse il ministro, dando una pacca sulle spalle alla sua spia, che ne fu lusingata. «Sono sempre più contento di te. Quando sei uscito, mi sono messo a pensare alla tua intelligenza e alla fedeltà con cui mi hai servito. Presto troverò un'occasione per darti il posto che meriti. Che strada fa questo furfante di israelita? Dorme a Rex questa notte e deve passare per il Kaiserwald». «Sei un uomo coraggioso, Johann Kerner?» «Vostra eccellenza vuole mettermi alla prova?» disse l'uomo con un lampo negli occhi. «Ho servito nella guerra dei 7 anni, dall'inizio alla fine, e non mi si è mai visto tremare!» «Ora ascolta, bisogna togliere lo smeraldo a quell'ebreo. Per il solo fatto di tenerlo, quel furfante si è reso colpevole di alto tradimento. All'uomo che mi porta quello smeraldo, giuro che darò 500 luigi, perché è necessario che venga restituito a Sua Altezza la principessa. Non occorre che ti dica altro.» «L'avrete stanotte, signore», disse l'uomo. «Naturalmente, Vostra Eccellenza mi tirerà fuori dai guai in caso di incidenti.» «Diamine», rispose il ministro, «ti pagherò metà della somma in anticipo. Tale è la mia fiducia in te. Non possono esserci incidenti se prendi tutte le misure del caso. Ci sono 4 leghe di foresta. L'ebreo cavalca piano. Sarà notte prima che possa raggiungere, diciamo, il vecchio polverificio nel bosco. Cosa ti impedisce di tendere una corda attraverso la strada e affrontarlo là? Sì, di ritorno da me stasera per cena. Se incontri una pattuglia, di così: le volpi sono scappate, è la parola d'ordine per stanotte. Ti lasceranno passare senza farti domande. L'uomo se ne andò contentissimo dell'incarico e mentre Magny perdeva il suo denaro giocando a faraone con noi, il suo servo aspettava in agguato l'ebreo nel luogo noto come il polverificio nel Kaiserwald. Il cavallo dell'ebreo inciampò nella fune tesa attraverso la strada e mentre il cavaliere cadeva a terra lamentandosi, Johann Kerner balzò fuori e gli fu addosso, mascherato, la pistola alla mano, chiedendo il suo denaro. Sono convinta che non volesse affatto uccidere l'ebreo a meno che la sua resistenza non rendesse necessarie misure estreme. E infatti non commise nessun assassinio, perché proprio mentre l'ebreo urlava pietà e il suo assalitore lo minacciava con la pistola, arrivò una pattuglia a bloccare il pretone e il ferito. Kerner bestemmiò. «Arrivate troppo presto!» disse al sergente. «Le volpi sono scappate!» Alcuna è stata presa, rispose il sergente senza fare una piega, e gli legò i polsi con la corda che lui stesso aveva predisposto per intrappolare l'ebreo. Kerner fu caricato su un cavallo dietro a un poliziotto. L'ebreo Love venne sistemato nello stesso modo, e così la compagnia tornò in città al calar della notte. Li portarono subito alla stazione di polizia e, visto che il capo si trovava lì per caso, vennero interrogati da Sua Eccellenza in persona. Furono tutte e due perquisiti accuratamente. All'ebreo tolsero i documenti e gli astucci. Il gioiello lo trovarono in un taschino segreto. Quanto alla spia, il ministro con uno sguardo furioso disse: «Ma questo è il servitore del cavaliere de Magny, uno dei marescalchi di Sua Altezza la principessa!» E senza ascoltare una parola di discolpa da quel povero disgraziato tremante, ordinò che fosse tenuto in stretto isolamento. Fatto venire il suo cavallo, andò a palazzo, agli appartamenti del principe, e chiese di essere ricevuto immediatamente. Quando fu ammesso, tirò fuori lo smeraldo. «Questo gioiello», disse, «è stato trovato nella persona di un ebreo di Heidelberg che è venuto qui più volte negli ultimi tempi e ha avuto ripetuti incontri con un marescalco di Sua Altezza, il cavalier de Magny. Questo pomeriggio il domestico del cavaliere è uscito insieme all'ebreo dall'alloggio del suo padrone. È stato udito mentre raccoglieva informazioni riguardo alla strada che l'ebreo intendeva fare per tornare a casa. L'ha seguito, o piuttosto preceduto, ed è stato sorpreso dai miei agenti del Kaiserwald mentre rapinava la sua vittima. Non vuole confessare nulla, ma durante la perquisizione gli hanno trovato addosso una grossa somma in oro, e benché sia per me un immenso dolore dover concepire un'idea del genere e implicare un gentiluomo che ha la reputazione e il nome di Monsieur de Magny, sono costretto a osservare che è nostro dovere far sì che il cavaliere venga interrogato riguardo a questa faccenda. Poiché Monsieur de Magny è al servizio personale di Sua Altezza la principessa e gode anche, a quanto ho sentito dire, della sua fiducia, non mi azzarderei ad arrestarlo senza il permesso di Vostra Altezza». Il maestro di stalla del principe Victor, un amico del vecchio barone de Magny, era presente all'incontro e, non appena sentito quello strano resoconto, si affrettò dal vecchio generale con la terribile notizia che suo nipote era accusato di un tale crimine. Forse anche Sua Altezza il principe Victor non era contrario a dare al suo vecchio amico e maestro d'arte bellica una possibilità di salvare la sua famiglia dal disonore. Fatto sta che il maestro di stalla poté andarsene indisturbato a casa del barone e informarlo per primo dell'imputazione che pesava sullo sfortunato cavaliere. È possibile si aspettasse già qualche spaventosa catastrofe, perché dopo aver ascoltato il racconto disse solo: «Sia fatta la volontà del cielo», e per qualche tempo rifiutò di muovere un dito in quella faccenda. Soltanto dietro insistenza del suo amico si lasciò convincere a scrivere la lettera che Maxime de Magny ricevette poi al nostro tavolo da gioco. Mentre stava lì a scialacquare il denaro della principessa, la polizia fece visita al suo appartamento e furono trovate 100 prove non della sua colpevolezza circa la rapina, ma della sua relazione colpevole con la principessa. Oggetti donati da lei in segno d'amore, sue lettere appassionate, copie delle lettere che lui scriveva ai suoi giovani amici di Parigi, tutte cose che il ministro della polizia esaminò e raccolse con cura in una busta sigillata per Sua Altezza il principe Victor. La fortuna, ah, voi avevate molta fortuna in quei giorni, Monsieur de Balibari, si accaniva contro di lui, rimase lì e perse i suoi 4.000 ducati, poi ricevette il biglietto di suo zio. In quel pessimo giocatore, tale era la passione per le carte che, appena avuto il messaggio, scese in cortile, dove il cavallo l'aspettava, prese senz'altro tutto il denaro che il povero vecchio gentiluomo aveva messo nelle fondine della sella,